non piove di furi, chissà, me lo dovrebbe dare la corrente come si deve quello, così e ti. Insomma, anch'io ce l'ho a due passi, solo che, chi lo sa quanto ne consumi realmente e quanto te ne fanno pagare, anche se sono elettronici possono fare quello che gli piace, a quanto credo io, e poi non lo so. Gianni. Mi sembra un po' come quando ti mandano a comprare lo spray per le stazionarie, per regolare le stazionarie. Sì, vabbè, ma quelle sono dicerie. Queste sono cose che stavano cercando di provare per poter fare forse una vendita anche di questo supporto qua e mettere dentro casa. Però sai, chi è disperato magari ci crede anche, capito? Poi io sono del parere che dal momento che ci hanno messo questi contatori elettrici che tu non ti puoi interagire e quant'altro, non sono come quelli vecchi, attenzione, quelli vecchi voi sapete benissimo che in qualche modo o in qualche maniera si potevano anche un po' rallentare, no? Quindi se volevi un po' il consumo a tuo rischio e pericolo, volevi delimitare un pochino la soglia del consumo, la potevi anche fare. Con questi magari viene un pochino più difficile, o perlomeno io parlo da ignorante, perché sinceramente non lo saprei fare, se no l'avrei anche fatto. Vai Gavì. Sì. Il fatto è che non è che parli, non è che sei ignorante, è che non lo puoi fare, perché tu come dai, abbiamo da perdere, capito? Andiamo da perdere, quindi non ci possiamo permettere di fare certe cose. Però la soluzione ci sarebbe, e questa è una cosa seria che sto dicendo. Allora, la soluzione ce l'ha chi abita in una, in qualche casa bi o trifamiliare, nel senso che vai a fare la richiesta dei 380, fai la richiesta della trifase, chiedi 10 kW, sì, sono 369, e ti trovi 3 kW e 3 a, diciamo, a utente. Dilimiti il conto a scatti, dilimiti, ogni abitazione mette il suo conto a scatti e si fanno i conti della corrente effettiva che si consuma, che arriva in contatore ogni 2 mesi, e si dividono. E per quanto riguarda il trasporto e quella roba lì, non la devi pagare da solo, oppure spesa di trifase, la paghi in 3 famiglie. E secondo me quello è l'unico modo che si può risparmiare, che consumi veramente la corrente reale, cioè che paghi veramente la corrente che consumi realmente. Quindi trifase, 3 contascatti, e vai a vedere l'effettivo assorbimento che hai tu nella tua abitazione, e poi tutte le spese, trasporto, nel sistema, balle, e poi verrai a Cegghiani, scusando la parola, e si dividono per 3 persone, capito? L'unico modo per risparmiare è quello, avere anche un buon vicinato e dividere, però non lo puoi fare, non lo puoi dire, devi fare una sorta di contatore unico e smezzare le tre fasi. Questo è quello che penso, è quello che si è constatato, per avere del risparmio, per avere risparmio con questa gente. Paghi all'inizio, paghi il servizio a 380, però poi te lo ammortizzi con questo sistema. Vai Fra. Ma è troppo, è come stai dicendo tu, è troppo complicato. L'unica è o la cabina o il palo. Fra, cabina o palo, cosa vai? La luz isola di noti con un baro. Se è un palo temporizzato, t'entra la luz, va, per esempio fa buio alle 9, tu dalle 9 di notte, allora è la corrente, il frigo attacca alle 9 di notte. Ma poi se ne accorgono. Ed è penale, quelle sono truffe. quelle sono truffe. Non so se col mercato libero sia una truffa ai danni dello Stato, perché se è passato mercato libero, però ti ammazzano, ti fanno passare i guai, denunce penali, denibidano e tutto. L'unica cosa è fregarli così. Trifase e contrascatti per ogni abitazione. Dice il contrattore a chi è in testa, è in testa va a me, non ti preoccupare. Intanto un primo che non paga, vieni di tagliare la corrente. Dici no compà, tu non hai pagato questo mese, staccata la forbice. E corrente non è più. Quindi io la penso così, l'unico modo per risparmiare è quello. Vai Tino. Sì, non è, poi passo il mic a Gianni, non è una cattiva idea quella che hai detto tu, perché adesso pensandoci bene è vero, stai togliendo praticamente le spese dell'IVA, perlomeno dell'IVA in parte, perché e anche il trasporto in parte, perché uno lo deve pur pagare, quindi, però quello è diviso in tre anziché uno da solo. Non è una cattiva idea, è che devi avere anche un buon vicinato dove tu puoi dire, facciamo una cosa, siete tutti d'accordo, ok, però deve essere tutti d'accordo, perché nel senso che basta uno che rompe le Wallace e allora la cosa si distrugge. Vai Gianni. E poi bisogna vedere quanto risparmiti, se ne vale la candela di mettersi in tre persone, che magari c'è sempre quello che consuma di più, quello che consuma di meno, ma non, insomma non è che puoi dividere in parti uguali la corrente. No, scusami Gavino, non stiamo parlando di corrente, Gavino ha ben detto che uno è intestatario della corrente, di questi 10 kilowatt, praticamente tu ti metti il tuo conta kilowatt, cioè se tu ne consumi 100, 1000, a me cosa me ne frega, te la paghi, capito? Ah ecco sì, con un conta scatti sì, allora va bene, non avevo capito, ma andava, e comunque è sempre a vedere come si può fare, ma in un condominio come sono io, come ti vai? Prima mettevano l'ago, il contrattore, ma là non si può più fare. Scusati, nel condominio Gianni uno prende, deve, guarda ti posso dire, quante siete? 6 famiglie, 10 famiglie, si fa ogni tre famiglie si fanno il contrattore. Un contrattore intestato a, cosa ne so, fai intestato a te, tu prendi, ti dismetti, hai la trifase e dai una fase o neutro al signor Rossi, una fase o neutro al signor Bianchi e una fase neutro a te, e tu sei l'intestato del contrattore. Signor Rossi assorbe 700 kW ogni due mesi, ok, e pagherà, cosa ne so, 150 euro. Tu ne assorbi 50 kW e paghi 30 euro. L'altro ne assorbe 500 e paga la somma di 500 kW. Si fanno i conti. C'è un conteggio, c'è il conteggio, ben, devi fare il tuo consumo diviso la tariffa oraria, e allora di lì prendi e sai quanto hai veramente consumato tu. E poi cosa ci sono? 100 euro di commissioni, si divide, 100 euro diviso 3, tu vai a pagare la bolletta. E questa gente bisogna fregarla così, perché perché in questo caso hai la monofase e ti devi pagare spese di trasporto, IVA, oneri del sistema, 8 per 1000, ti paga tutto, a chi abbatti buono il burro 8 per 1000, vedrai, per la sedia a ruota del Papa, poi altre 10 euro a famiglia per l'ossigeno. E poi hai anche il canone RAI e stai mantenendo lo Stato, quindi l'unica cosa per risparmiare è quella, il contascatti e un contattore generale, almeno io la penso così. Vai Tino, riprendi e fai girare per Franco dopo. Già potrebbe essere una soluzione, però la soluzione migliore è conoscere qualcuno che ti fa un abbraccio sotto banco e poi si vedrà. Vai Fra. Non so a che punto si può fare una cosa del genere, perché la bolletta la mandano loro, mi sa che devi pagare quello che ti mandano loro, non quella che ti fai tu. A chi l'ha detto Franco? Franco, chi l'ha detto questa cosa? Allora, la bolletta paghi quella che ti mandano loro. La bolletta tu paghi quella che ti mandano loro, pure divisa per tre famiglie. Per esempio, se io abito in un complesso di una casa trifamiliare, te lo ripeto, tu fai l'aggancio, interessato anche, me lo interesso a me, però c'è, cosa ne so, il mio vicino che gli va bene questa cosa, e l'altro mio vicino che gli va bene lo stesso, ci mettiamo d'accordo, ognuno si mette il conto a scatti. E prendi, ognuno si paga la corrente che consuma, capito Fra? Poi tutte le spese che ci sono di burocrazia, quelle le dividi per tre. Non vai a pagare più 150-200 euro di oneri che ti mettono in bolletta, ma quei 200 euro li paghi diviso tre persone. Mi segui? Quindi un po' riesci a respirarla questa sorta di pressione, riesci a dividerla questa, perché questa è una pressione che ti stanno mettendo, mi segui, per pagare. E allora l'unico modo per fregare, no, non si tratta di fregarli, ci si sta adeguando alle loro magagne, capito? Però bisogna, come ha detto Tino, bisogna essere d'accordo, capito Fra? Sì, ho capito, però non lo so, perché quello che paghiamo noi non sono, in pratica non sono le bollette, che la luce che consumiamo, perché se pagheremo solo la luce che consumiamo sarebbe bassa la bolletta, ma il problema è tante oneri, altre cose che ci mettono, non l'ha capito, voci che noi non conosciamo neanche. Non l'ha capito, Fra, non l'hai capito. Allora, queste cose qua, te l'ha detto Galvino, te l'ha spiegate tre volte. Tu non è che stai pagando luce in più, stai pagando, allora ti stai dividendo quelle spese che tu stai dicendo, anziché pagartele tu da sole, te le paghi in tre. Sì, ho capito che le paghi in tre, ma gli oneri arrivano sempre. Ancora, riprendi Gianni. Sì, arrivano, ma li paghi in tre, Fra, invece che pagarmi da solo. E invece di pagare 150 euro li dividi per tre, non ha capito se conviene. Convenire già conviene, ma bisogna vedere se danno il capo condominio d'accordo, perché il capo condominio fa la lettura dei contatturi e in base a quello che è consumato si potrebbe mettere anche lì per contare quello che consumi, dai. Anche lì si potrebbe fare, ma bisogna vedere se per chi c'è complicato, magari da. Non lo fanno Gianni, non lo fanno perché non si prendono la responsabilità di farlo. Però, scusate, però voi considerate che questa soluzione si usa nei garage. Questa soluzione si usa nei garage, perché magari si fa l'abbonamento da 6 kW, perché se non sbaglio, sto dicendo una fesseria, la tariffa minima parte per la trifase parte dai 6 kW. Su questo non ne sono sicuro, però avevo sentito un qualcosa del genere. E si fa per i garage, capito Fra? Capito, sì, Fra. Si divide per tre garage, però poi magari uno dice, ma io non riconsumo 3 kW in garage, io in garage assorbo 1 kW e mezzo, 2 kW massimo. E allora magari si mettono dei contascatti e uno dice, con questa corrente alimentiamo 6 garage, intanto io ho il contascatti di quello che consumo io per sì, capito? Cioè fai che sia la bolletta di 600 euro ti arriva di consumo effettivo di bolletta, tu hai 600 euro e vai a vedere chi ha consumato questi 600 euro, chi più e chi meno. Se io ho consumato 400 euro, gli altri non le devono pagare 400, cioè devono pagare la corrente mia. Io do i miei 400 euro. e poi gli altri quattro garage mettono le 50 euro a testa, però in tutti e sei si dividono tutte queste tasse che arrivano, invece di Bagatti, 200 euro da solo, te ne paghi 200 euro diviso 6, quindi la bolletta ti verrebbe intorno ai 56 euro. Invece di là, in un garage con questa monofase e singolo, ti arrivano anche 150-200 euro, capito? Vai sempre a risparmiare. Si usa molto nei garage questa soluzione, si usa molto nei garage. E avendo un vicinato che ci sta a questa soluzione, sarebbe una cosa buona. Hai sempre i tuoi 3 kW, hai sempre le tue, diciamo, la tua parte, e ti dividi l'utile. Ci compri il pan, vai. Vabbè, comunque non è così semplice, cioè perlomeno qua in solitaria non si può fare. Mi devo pagare la corrente io, la corrente degli uniti e quant'altro. La cosa più semplice è conoscere qualcuno che ti fa una lace al ferro. Vai, Fra. Così è bello, una lace al ferro, così sarebbe bello. Ma alla fine quei bastardi se ne accorgono lo stesso. Va bene, paghiamoci quello che ci viene. Allora, ti già. Fare la cesterna è come rubare i soldi, la stessa cosa, quindi è una truffa sempre. Ma io l'ho fatto come battuta, non è che, per carità, non ci ho mai pensato di farlo, l'ho fatto solo come battuta. Scusami Eti. Ma perché loro non ci stanno truffando a noi? Questa è la mia domanda. Loro a noi non ci stanno truffando? Sì, ma però loro sono autorizzati a farlo. Guarda, non ne cambio più perché ho cambiato 2 o 3 volte operatore e ogni volta mi arrivano bollette, arretrate, questo e quell'altro. Alla fine non conviene più cambiarlo perché ti mandano le bollette che magari non è pagato quei mesi, eccetera eccetera. Io lo minamento perché mi stavano arrivando tramite telefonino e io poi le cancello tutto perché mi dà fastidio quando è troppo pieno il telefono, quindi non me le ricordo, le pago e ogni volta è così. Adesso basta, adesso ho l'energia, mi sta dando bene quello, mi sta facendo pagare abbastanza poco, dico la verità, lo sto pagando tantissimo. L'ultima che mi è arrivata è 37 euro. Martino! Ascolta, già, non mi dire così che mi metto a piangere, l'ultima che mi è arrivata di energia è 470 euro. Ciao Tino! Sì, ma io c'ho il bonus energia. Ciao, hai capito? È così già, io ce l'avevo tanti anni e se ne approfittano anche loro. Io sto usufruendo del bonus energia, quindi a me mi viene di meno per quello, poi sono da solo a casa, tu sei 4 persone. Già così, anche io usufruivo. Giulio. No, ma chi è Giulio? Ho sentito ciao Tino, mi è sembrato Giulio, No, sono fatto io per dirti per i 30 euro. Ero distratto, scusami Fra. Ho già, anche io avevo sino al mese scorso o 2 mesi fa avevo il coso, poi in base all'Elisee purtroppo è insomma cambiato, però avevo il bonus sì, però arrivare a quelle quote lì, forse anni fa pagavo 46 euro, 37 euro come stai dicendo tu, però ci sono delle cose dietro, cioè se paghi così vuol dire che lo stipendio, per dire, è più basso di quello di oggi, capito? È tutto legato. Sì, certo, in base a quello che tu percepisci, normale. Vabbè. Quando cambieranno, quando muteranno fuori a Giorgia Meloni, che ci sarà Conte come diciamo principale di tutto, cambieranno anche le cose, perché così stiamo andando al catasfascio, questa ci sta portando alla guerra. Non so perché, vabbè, io non sono per la Meloni, anche se purtroppo l'ho votata. Però diciamo la verità, non sono per la Meloni. È che quando c'era Conte, sì, c'è stato il fatto del, come tu sai, del bonus 110, e adesso qualcuno grazie a quello sta piangendo forte. Quindi voglio dire, secondo me un po' tutti fanno un po' di magagne per le votazioni, tutto quanto, e poi però chi ci piange è sempre il poveraccio, perché tu sai, ben sai che il 110 chi l'ha fatto, sì, ne ha usufruito, ti hai fatto la facciata bella, tutto quello che vuoi, però adesso devi iniziare a sborsare, perché è successo così, ed è un bel casotto, è un pensionato che si pensava che magari per la sua casa fosse stata una cosa ottimale, adesso deve mungere, hai capito caro Gianni? Ma io penso che le persone a cui hanno dato 110 non devono pagare altri soldi, o devono pagare la differenza. E poi tutti gli aumenti ci sono stati nel materiale, questo non l'hai contato, tutte le cose, tutti i preventivi più alti che hanno fatto per poter fare, era il boom, no? Tu sai benissimo che quando c'è il boom delle cose la gente ne approfitta, quindi se prima una facciata ti prendevo, faccio una cosa un po' ipotetica, se io prima per una facciata ti prendevo 1000 euro, ora che c'è il boom, che ci sono tutte queste cose qua, non te le prendo più 1000 euro, ma te ne prendo 2500, quindi già i prezzi sono lievitati alla grande, lievitati i prezzi del mercato sull'edilizia, sui punteggi non se ne parli, ma a te già sinceramente le cose gratis te le fanno. No, ma quello non bisogna guardare sul lato negativo, ha fatto diciamo rifiorire anche l'edilizia, questo 110%, perché l'edilizia non ti dimenticare che stava proprio crollando. Con questo 110% hanno avuto un po' d'aria, diciamo. Ma ne hanno approfittato, che ci piange vedere sono quelli i proprietari delle case che purtroppo hanno fatto questi tipi di lavori qua. Perché le persone non sanno usufruire di ciò che gli danno, non gli basta mai, capito? È quello che c'è. Perché se no ci sarebbe stato ancora il 110%, se non ci fossero stati furbetti. Magari ci sarebbe stato ancora e avrebbero lavorato diversi muratori, idraulici, eccetera, eccetera. Invece adesso sono tutti fermi perché adesso l'hanno fermato, questo 110%, e adesso non sarà più 110%, lo aumenteranno sicuramente. Beh, vabbè, io non sono informato al 100% su queste cose, però quando fanno queste cose qua la fottitura c'è sempre. Va bene, vai, Gavi. Boh, non lo so, non lo conosco. 110%. Io so di imprenditori che si sono rovinati con questo 110%, eh? Imprenditori che si sono rovinati e sono andati anche in bancarotta. Gianni, purtroppo l'edilizia non era ferma perché l'edilizia era ferma per colpa delle banche, non per colpa perché non c'era lavoro, è perché le banche hanno dato una stretta ai prestiti, diciamo ai mutui con tassi altissimi, e quindi la gente non comprava case, non ristrutturava, non si facevano i passi che si facevano quando davano i mutui, non a cane a porci, perché è stato anche dei mutui a cane a porci, però il mutuo, se tu vedi che una persona paga 450 euro d'affitto e non ha mai sgarrato e in casa si lavora in due, e sono persone, ci sono tanti ragazzi che hanno contratto a tempo indeterminato tutti e due, ragazzi di 25 anni, 30 anni, però il mutuo gli viene rifiutato perché non hanno anzianità nel, diciamo, nei prestiti. Ma si va giù 30 anni e sono una persona che mi sono sposato e mi vorrei fare la casa, io che anzianità posso avere? Non hai credibilità, e dammi la credibilità, no? Allora di lì possiamo già iniziare a ragionarne. Il 110% non l'ha messo Conte, il 110% è stato messo dall'Unione Europea, perché Conte, la Meloni, quello, quell'altro, non contano niente. Noi non dobbiamo, l'unico che contava in Italia era Berlusconi, basta, finito, che faceva quello che voleva. Perché questi qua non contano niente, chi conta in Italia è l'Unione Europea e le banche. Le banche soprattutto, perché hanno un interesse a specularci sopra che fa paura. La Meloni, anche lei non può farci niente, perché chiunque è entrato non ci poteva fare niente, ma perché anche Conte è entrato e aveva messo il bonus monopattini, bonus vacanza, bonus guida, bonus guidatro, e tutto è andato a prendere, a rovinare le casse dello Stato. Questa scema sta prendendo e vuole finanziare la guerra, ha finanziato quel tossico di Zelensky. Adesso non sono contrari contro i dazi che ha messo Trump, e Trump ha fatto bene a mettere i dazi, ha fatto bene, perché dice: se tu vuoi portare il tuo olio tunisino in America devi pagare, perché io in America ne ho tanto di olio, ho tanto e posso produrmelo da solo, perché tu devi portare il materiale da fuori e io qua ho la roba mia ferma? Allora ti faccio pagare, per entrare ti faccio pagare il 30%, così per l'Italia, così per tutti i paesi del mondo. E l'Italia, anche l'Italia dovrebbe mettere i dazi, perché se tu vuoi portare, perché qua noi in Italia abbiamo le arance più buone del mondo, i limoni più buoni del mondo, però portano i limoni da Galera che ce li mettano, capito? Perché non pagano niente. L'Italia fa parte dell'Unione Europea e allora può entrare tutto. E ci sono i nostri agricoltori che schiacciano le mele perché gliele pagano 2 centesimi al chilo. Io con Trump sono d'accordo, se tu vuoi entrare in America paghi, col tuo materiale paghi, altrimenti ci mangiamo la roba nostra e diventiamo ricchi noi, o rimaniamo ricchi noi, non che mi porti la mondezza da altri posti, io con la roba giù nella quale devo buttare, non esiste, anche l'Italia deve mettere i dazi, si deve far rispettare. Vai Franco, riprendi. Dai, io vi lascio perché mi stanno chiamando giù. Già ci sentiamo, magari più tardi, ci sentiamo. Ciao Tino, ciao Gianni e ciao Gabrino. Buona carica quando l'ho fatta e buon tutto, dai. Io devo scendere giù. Riprendi Tino e fai girare. Andare, ciao Fra, dai, buona serata, buon tutto, così, vabbè dai, faccio salutare e poi riprendiamo, vai già. Ciao Fra, ci sentiamo, buona serata. Ciao Fra, buona cena a te e a quella familiare, a dopo, riprenditi. Hai ragione, però non lo faranno mai, perché noi siamo in Italia, siamo un popolo di piccoloni, è come quello che va in Corsica a lavorare per i cacchi tuoi, avresti fatto lavorare, perché? Perché prima di lavorare tu devono lavorare i corsicani, sinanigana, se poi non hanno voglia allora provaci che ti farà entrare, però intanto prima la loro gente, dopo gli estranei parlo dei sardi stesso, e non è che... Qua invece fanno entrare cani e porci, è giusto che poi tu mi dici, ehi, ma cazzo, quello là prende 80 euro e lavora come un negro. Ho capito, lavora come un negro, però intanto te pian piano te ne buttano fuori strada, fuori dal tuo paese. Esatto, in Italia, noi abbiamo le maestrie più... diciamo più preparate al mondo. Abbiamo un operato manufatturiero che è indispensabile per tutto il mondo, abbiamo una qualità sul lavoro eccezionale, abbiamo dei prodotti per quanto riguarda frutta, verdura, che sono paurosi. I nostri motori Fiat, Alfa Romeo, Lancia erano auto bianchi, erano i più invidiati al mondo. La Iveco, eravamo i numeri uno. La pesca nostra è la più perfetta. Noi abbiamo dei pescatori che sono fenomenali, gente. Noi italiani lavoriamo, dobbiamo essere pagati giusto, però l'italiano lavora ed è anche un ottimo operaio, però deve essere pagato. In Italia purtroppo è manomessa per quanto riguarda il stato del lavoro dai sindacalisti, perché i sindacalisti sono i primi ladri che ci sono in Italia. Il governo italiano ormai è andato a farsi benedire. A Berlusconi dicevano che rubava, che faceva, che era un corrotto, che era tutto quello che vuoi, che andava a che aveva le donne, che aveva, ognuno della sua vita privata può fare quello che vuole, quello che più gli aggrada. Quando uno sul posto di lavoro è tranquillo, mangiava, però faceva anche mangiare, capito? Con il Berlusconi che bisogna mettere quello che lui mangiava, no? Se ci faceva gli affari sui, però ti faceva anche fare gli affari tuoi, ti veniva incontro. È stato un imprenditore che ha dato posti di lavoro a migliaia di persone, ha costruito la Milano 2 dal niente, perché poi lui non era nessuno, dal niente. E purtroppo è così. Io quando mi dicono quelle mele vengono invece, guarda che questa è la mela sarda che costa 3 euro e quella mela là viene 1,90 euro, di dove? Mele della Grecia o mele di mele tunisine, no, prendo la mela sarda, ma invece ne prendo 2 kg, ne prendo 1 kg, però io mele da quei posti non ne mangio, capito? Vai Tino e rilancia per Gianni, poi io chiudo un attimo. Sì, vabbè, c'è una cosa dietro, capì, che purtroppo queste cose qua è il mercato che le decide, perché effettivamente vai a comprare i pomodori se hanno sapore contro quelli nostri, ormai ti stanno facendo arrivare delle cose che tu mangi ma non hanno sapore. Quando è che ci dice beato chi ha un pezzo di terra perché si pianta qualcosina e almeno mangia qualcosa di naturale, qualcosa di buono? Solo per quello, perché ormai le cose che ci portano a noi sono cose fatte chimicamente quasi o la maggior parte, quindi no, non è così. Però purtroppo chi c'è in mezzo è quello che è, deve fare numeri con i quattrini. La cosa tua costa troppo, quella di fuori costa di meno, quindi prendiamo quella di fuori. Come c'è stata la svolta del cemento, Italcementi, io ho conosciuto Italcementi che era lì a Scala di Ciocca, che era quello più importante, il cemento era buonissimo, poi ne hanno portato quello greco che costava la metà di Italcementi, e uno dice cazzo, io compro questo qua. Il colore era, credimi, il colore era meglio quello di quello greco, però come resa di coso non ce n'era, perché anziché mettere un sacchetto dove metterne due per avere la stessa resa di quello di Italcementi, però costava molto molto meno, e quindi hanno optato per far chiudere l'azienda. È un casotto, bisogna starci dietro, a fare i soldi e a fregare la gente. Vai già. Mi riallaccio a Trump, secondo me Trump sta facendo una guerra commerciale per incrementare il lavoro lì in America, capito? È quello che sta facendo, una guerra commerciale. Trump sta facendo gli interessi del suo paese e fa bene. Appena, guarda Gianni, si è notato appena entrato, diciamo, appena ha preso la poltrona, ha preso per le orecchie subito a Zelensky e gli ha detto: tu stai giocando la terza guerra mondiale, o la smetti o noi. Gli hanno già chiuso i viveri, gli hanno già chiuso i viveri, senza, ma proprio l'ha trattato come uno zerbino, l'ha trattato come uno zerbino, ed è quello che si merita. Ed è quello che si merita Zelensky. Già Trump sta facendo interessi del suo paese e bisogna lasciarlo fare. Tutti sono contrari, tutti sono contrari, perché adesso bisogna rimboccarsi le maniche e adeguarsi, adeguarsi a questa cosa. Vorrà dire che il vino, ti faccio l'esempio, il vino lo vendevano le bottiglie di vino, le vendevano a 7-8 euro la bottiglia, vino da 0,85, anche vino sardo, perché intanto lo dice, non lo comprano i sardi, lo prendo, faccio container e lo mando fuori. Adesso no, adesso non funziona più così. Adesso tu, per vendere il vino, per vendere in quantità, devi abbassare i prezzi, vedi? Perché forse non le converrà neanche più mandarlo fuori, perché tra viaggio e dazio le conviene più prendere, abbassare il prezzo qua in Italia e smerciarselo in Italia, almeno non paga tutte queste commissioni e queste, diciamo, queste spese extra che gli sono state messe. Almeno questo riguarda l'America, questo riguarda l'America. Poi possono fare quello che vogliono, ma vedrai che qualche prezzo, il prezzo di qualche materia prima abbasserà, e vedremo se l'Italia si sveglia, e metterà qualche dazio anche lì, qualche spesa di frontiera per portare qua nel nostro paese l'olio, mele, vini, tutto quello che si può, tutto quello che si può esportare, importare, mette anche lì un qualcosa che dice: vuoi portarlo in Italia, adesso paghi. Non arriva più di questa roba qui diciamo, i coltivatori italiani, tutta la maestranza che avevamo noi, che è tanto di cappello, riuscirà ad andare avanti, anzi a riprendersi, non andare avanti, a riprendersi, perché adesso sta andando avanti a forza di inerzia, riusciranno a riprendersi. Signori, io con questo, diciamo, con questo passaggio chiedo permesso di QRT di un'oretta, perché devo mettere qualcosa nella stiva. Ci riascoltiamo le prossime. Gianni, io ti saluto, grazie per la chiacchierata e per essere entrato, e saluto Tino e saluto anche tutti gli amici all'ascolto che si sono fermati per farci compagnia, anche se solo all'ascolto, su questo discorso. Ciao Tino, ce la riascoltiamo dopo, credo tre quarti d'ora, un'oretta, se ci sei riprendo. Buona serata a tutti, riprenditi. Sì, va bene, ok, dai. E anch'io fra un po', in due secondi mi devo mollare, sono un po' seduto, da un po' di tempo mi fa male la schiena. Mi devo muovere, devo uscire fuori a fare qualche cosa. Va bene, capirai, sentiamo, buona carica, buon tutto, vai già. Ciao Gianni, è stato un piacere anche per me, dai, buona serata. E niente, se stai ancora Tino, concludo il discorso e poi vabbè ce ne andiamo, perché anche devo portare giù il cane. Sì, dai, no, era giusto per sgranchirmi le gambe, ho già, vai tranquillo, vai, sono qua. No, stavo dicendo, Trump con quello che ha fatto non sa che problemi dà a tutti gli altri, a tutte le altre nazioni dell'Unità Europea, tutti gli aumenti che ci saranno, metteranno molta gente in crisi, questo è così, quanto che ha fatto bene per lui, perché lui diciamo non pensa agli altri, pensa a se stesso, come hanno sempre fatto gli americani, hanno avuto sempre bagni di grandezza, di possessività. Vabbè, comunque, detto questo, io mi sono già accorto che stanno aumentando anche i pomodori, io prendo quelli ramati, o prendo i ramati oppure quelli ciliegina, perché gli altri non sapete di un cavolo, hai ragione tu. Ho provato, sì, c'è, ma non è come, tu sai benissimo che io abito in campagna, no? Come tu sai, che è un pezzo di terra, qualcosina se la mette, ma niente a che vedere con quelli che mettiamo noi, per carità, è una cosa, ma molte volte mi dà fastidio, se io non ho voglia di piantare perché lo voglio comprare, avanti, perché mi devi dare mondezza? Per quale motivo? Cioè mi stai dando una cosa che praticamente la sto mangiando, ma so, vedo solo la forma, non sento sapore, capito cosa devo dire? E infatti io nei pomodori quando mi faccio l'insalata ci metto la cipolla per dargli un po' di sapore, anche se no sale non ne ha più, sì. Prima io mi ricordo che c'erano quei ciliegina di Alghero che erano buonissimi, adesso boh, non si trovano più quelli lì. Quei pomodori ciliegina, quelli che piantavano Alghero, quelli erano buonissimi. Questi che sto prendendo adesso li lavo molto bene perché hanno odore di medicinale, come se li mettessero qualche cosa per gli insetti, per qualche cosa del genere, hanno odore comunque, tu come li prendi male ti puzza anche la mano. Sì, anche io faccio come fai tu già, ma giusto per avere un po' di sapore, ma sapore della cipolla e basta, non del pomodoro. vabbè, purtroppo è così, però ci stanno dando tante schifezze da mangiare che la metà basta, ed effettivamente se tu non hai un macellaio per dire di fiducia o un frutto di vendita di fiducia, insomma sei in mezzo alla mischia anche tu . Ma non ci vedi che siamo tutti quanti gonfi, cazzo, tutti messi male, in giro di poco tempo ti si fa lo stomaco e neanche te ne accorgi. Sì, senza avvisare i dolori, io guardi, c'è stato un periodo che mi stavo spaventando, i dolori che c'avevo alla gamba, mi si bloccava una gamba, praticamente mi tirava il nervo sciatico, mi rimaneva in tira come quando ti c'è il crampo, non riuscivo a camminare, ma dolori dell'altro mondo. Adesso grazie a Dio ho trovato questa pomata su internet, mi sta facendo bene, ne ho provato 1000 e non mi hanno fatto un cavolo, questa qua è micidiale. Brucia, perché se tu ne metti un po' di più devi stare attento, perché se ti brucia la gamba devi mettere la quantità giusta, però mi ha fatto come benedire. Guarda, io ne conosco una che la uso ormai già da qualche anno, che me l'ha detto una signora della corte, balsamo di cavallo si chiama, è una pomata rossa tipo gelatina, credo che la stiamo vendendo anche i cinesi adesso, poi io l'ho comprato da internet, è barattolo grande da 500 grammi, è micidiale. È quella che uso io. Allora ti ho preceduto, la conosco da qualche anno e ti dirò la verità, io la mettevo nel ginocchio non brucia tantissimo, perché forse come si dice, è molto spessa la pelle, però già lo senti il calore, ti allibbia. Non devi fare lo sbaglio di metterlo dietro il ginocchio, perché allora non dormi, perché è una pomata che brucia tanto. Se la conosci quella lì, sì, l'ho presa, ma io la uso già da 3-4 anni. Sì, io uso quella lì ed è l'unica che mi ha fatto bene, ti ho provato l'artiglio del diavolo, ho provato l'arbica, ho provato 1000 cose, non mi hanno fatto un cavolo, anche pastiglie, di tutto e di più. Adesso sto mettendo anche un busto di stoffa con delle stecche piccoline per tenermi la zona lombale, no? Di modo che non mi ripercuota sul nervo sciatico. E allora, è così. Va bene, già, dai, che adesso mi organizzo a fare qualcosa anch'io stasera, e poi magari, se ne hai voglia, ci sentiamo più tardi, se coincide. Se no, ritieniti salutato, dai. Va bene, ti dai, ci sentiamo, se ho voglia entro, dai, non te lo prometto, perché poi magari mi guardo il televisore e mi trattengo lì, se mi piace questo programma. Ci sentiamo, buona serata e buon tutto, buona carica quando la fai. Bene, bene, grazie alle quattro chiacchiere, ciao Gianni, ciao. Ciao, ciao. attento germano, si scucci la nord della Sardegna che te va chiamando QSL, breco. Vediamo un po'.